בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. לייב. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Time Live. Una buona serata a tutti, vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco Maurizio, forse l'avrai saputo, ma questa sera parliamo di FM. Esattamente. FM nel senso non di frequenze radio, come eravamo abituati a dire, siamo negli 88 e 700 FM. In realtà FM riguarda una persona che è venuta a trovarci, una persona che già dagli iniziali cominciamo a capire come si chiama, lui è Filippo Marcheggiani, eccolo qua, buonasera Filippo. Buonasera Flavio, buonasera Maurizio. Allora, questo progetto FM, innanzitutto hai fatto buon viaggio Filippo, sì? Sì, perché, un viaggio... Perché arrivi da lontano. Un viaggio tranquillo, dai. Un viaggio tranquillo. Questo ottobre ci sta dando la giusta tregua dal prossimo inverno. Ok, allora Filippo Marcheggiani è venuto a trovarci per presentarci il progetto che appunto si intitola FM, ma il titolo completo dell'album è Disperato Erotico Rock, un titolo che ricorda da lontano, ma poi Filippo mi confermerà da vicino, un brano di Lucio Dalla di qualche tempo fa, direttamente poco radiofonico, ma che comunque ognuno ha ascoltato nella propria privacy. Eh sì, che invito a rifarlo, riascoltatelo più volte e magari riuscirete anche a trovare la mia versione di questo brano, che è contenuta nell'album Disperato Erotico Rock. È stato un omaggio a Lucio Dalla, antecedente chiaramente alla sua scomparsa. Lucio praticamente ci ha lasciati il giorno dopo l'uscita su iTunes del mio disco, quindi è sembrata una cosa, anzi no, il giorno prima, il primo marzo, il disco è uscito il 2, quindi insomma è stato assolutamente casuale. L'omaggio a lui, come altri grandi cantatori della musica italiana, sarebbe stato comunque doveroso e fatto con una grande passione. Io anche perché in pochi hanno avuto il coraggio di riprendere in mano questo Disperato Erotico Stomp e metterlo nella versione comunque rock che è presente nel disco di FM Filippo Marcheggiani assieme alla sua band. Vogliamo presentare anche la band, anche se ci ascolteranno a distanza. Loro sono chi? Loro sono intanto è una sorta di matrioska questa FM. All'interno di FM c'è questa, io la chiamo la mia costola eversiva, che sono i Caos Calmo, e sono questo trio di rock alternativo romano: Daniele Raggi alla chitarra, Andrea Samonà al basso e Francesco Maras alla batteria. Con questa formazione ho registrato l'album, ho fatto i live dello scorso anno. Adesso Francesco si è preso una piccola pausa per seguire altri progetti e ho ritrovato da pochi mesi un amico di sempre, che è Mauro Munzi, batterista romano, ai più noto come il primo batterista, quindi storico, dei Dam, che oltre ad essere un grande musicista, un grandissimo batterista rock, è anche un amico fraterno, quindi ho sicuramente ricongiunto la famiglia ancora di più. Hai detto rock alternativo perché Filippo rock alternativo, rock a 360 gradi, dici questo? Grazie Maurizio, perché a me queste cose, queste nomenclature di rock alternativo, rock indipendente, sei poco indie, sei poco alternativo, ti danno un po' così, mi danno un po' il prurito, ecco. Allora, però diciamo che purtroppo, per capirci, cioè i Caos Calmo sono identificati con un gruppo rock alternativo o indie rock. Io sono identificato come uno che fa un po' pop, un po' rock, insomma non sono identificabile, di questo vado fiero, tanto è vero che a me quando mi dicono sei poco indipendente dico guarda, io il disco me lo sono prodotto, me lo sono scritto, me lo sono arrangiato, me lo sono registrato, me lo sono missato, me lo sono stampato, dimmi chi è più indipendente di me. Appunto, sono molto infatti così. A questo punto ho avuto l'intenzione di scrivere un brano che non so se andrà sul prossimo album o su qualcuno dei successivi, che si chiama Il problema della gente è che sono troppo indipendente. Perfetto, allora visto che siamo indipendenti anche noi, ci ascoltiamo subito un primo pezzo da questo disperato erotico rock. Ma il titolo più difficile, poi lo devi dire tutto attaccato. Flavio, disperato erotico rock. Bravo, come supercalifragilistiche spiralidose. Esattamente. Il prossimo tuo disco. Esatto. Benissimo, allora ci ascoltiamo alla stazione e poi torniamo qui all'interno di Blue Time Live. Treno, Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo ascoltati la prima canzone in programma da Disperato Erotico Rock FM, Filippo Marcheggiani è qui in studio con noi per farci spazio all'interno di questo disco, per comprendere un po' più la genesi di questa sua produzione assolutamente indipendente, come diceva all'inizio della programmazione, e anche per darci altri segreti sempre all'interno di questo suo lavoro discografico. Allora, partiamo da questo Alla Stazione, che è anche la prima canzone, quella che fa breccia e che parte subito con una voce distorta, proprio un grido di sofferenza a questo punto, con tanto di megafono per incrementare ancora di più quella che è, diciamo, la voce, diciamo, un impatto, se vuoi, negativo iniziale. Sì, anche finale, insomma. Sì, io rispondo a tutto, perché Maurizio mi ha detto adesso questa ce la spieghi. Sì, sembra di stare un po' in una stanza di interrogatorio, perché certo. C'è un vetro dove vedo Flavio. Sì. Cioè, sembra veramente CSI. Sì, non diciamo ai nostri ascoltatori che ti abbiamo legato. No, assolutamente, ecco. Anche perché mi hanno lasciato le mani libere per suonare la chitarra, ma sono praticamente... Però i piedi sono agganciati alla sedia. Sì. Allora, ti spiego questo pezzo. Beh, questo pezzo è l'inizio del disco, è l'inizio di un viaggio. Un po' sfigato, perché subito i treni che poi perdiamo, che è un po' il tema conduttore del disco. Alla Stazione si riferisce a un fatto che mi è realmente capitato, o meglio, realmente mi capita da anni, perché io ho, diciamo, una certa sfortuna con i treni. Prendo anche questi nuovi treni veloci, non facciamo i nomi, visto che adesso c'è anche un competitor sul mercato, quindi non facilitiamo. Sì. Riesco ad avere ritardi di un'ora anche con questi famosi super treni veloci Roma-Milano. Sì. In tre ore, io ce ne metto sempre quattro. Fanno presto a chiederti il doppio, no? Arrivo a Capena e infatti ho capito che io prendo due tipi di treni, il freccia rotta e il freccia ferma. Fantastico. Vabbè, sono speciali per me, tariffe speciali. Sì. Solamente poi riusciamo sempre a arrivare un minuto prima del famoso scatto del rimborso. Sì, in questo caso tu tiri fuori la chitarra in treno e quindi tranquillizzi gli altri utenti di servizio. No, temo che qualcuno me la possa rompere in testa, però. Vabbè, detta questa cosa, diciamo, la stazione è una metafora, non proprio metafora, ma che vuole descrivere attraverso questi treni persi, queste occasioni mancate, le occasioni della vita, che o le scelte, i bivi in cui tu magari ti fermi un secondo di più a riflettere e non imbocchi la strada che ritieni più giusta e pensi che di aver perso l'occasione per cui la tua vita prenda un determinato percorso. Poi dopo, a distanza di 8 anni, perché ne sono passati, anzi ormai 9, da quando hai scritto Alla Stazione, ti rendi conto che invece forse hai fatto bene a non prendere quel treno e a rimanertene alla stazione. Gli arrangiamenti, l'arrangiamento sonoro di questo pezzo, che è molto complesso ma molto interessante come costruzione. Beh, è un arrangiamento che anche questo figlio di quel periodo, insomma, il 2003, quindi c'è sicuramente una grossa influenza di quello che era il grunge degli anni 90 e questo rock degli anni 2000 con i Coldplay, ma soprattutto i Radiohead. L'abbiamo sicuramente rivisitato e incattivito, e l'abbiamo arricchito di una cosa che io a un certo punto della mia vita, non so per quale motivo, stavo diciamo annullando dal mio modo di fare musica, cioè gli assoli di chitarra. Come mai? Ecco, non facevo più i soli di chitarra, perché sembrava poco cool, poco figo essere un chitarrista solista che facesse più di 3 note a ogni brano. Ero preso un po' da questa infatuazione del pop rock minimale. Poi mi sono riscoperto in questi anni, quando ho deciso di pubblicare questi brani, quando ho deciso di essere protagonista della mia musica anche come cantante, cosa che ho fatto, che ho deciso molto a fatica e grazie all'insistenza di chi mi è vicino ormai da tanti anni, i miei amici più stretti, e ho deciso anche di rimettermi a fare il chitarrista, insomma. Quindi questo disco mi deve rappresentare per tutto quello che sono: un autore, un chitarrista e alla bisogna è un cantante, anche se insomma non ho velleità mercuriane o... Però quando uno scrive propria musica è giusto che la canti almeno. Sì, anche perché poi alla fine quello che mi dicevano tutti, io ho anche collaborato con bravissimi cantanti dove abbiamo provato a fare delle cose, con una band fino a poco tempo fa che si chiama Magnolia, che è arrivata finalista dell'Hurricane Jamming Festival di 2 anni fa, e c'è Elvis Carpinelli che è la voce solista di questo quartetto, anzi quintetto, che è un grandissimo cantante, un grandissimo vocalist. Io con lui faccio, farò se capiterà il tributo a Jeff Buckley, l'unica cover band che ritengo ancora degna di portare avanti, perché sì, è veramente un vero e proprio tributo. Quindi vi faccio capire insomma l'importanza della voce di Elvis, però effettivamente il pathos dei miei brani non era mai lo stesso che io riuscivo ad ottenere, quindi alla fine mi sono convinto che non basta avere una bellissima voce per cantare tutto alla grande, bisogna anche sentirsi un po', i pezzi sono un po' come la propria pelle. Bene, ricordiamo agli ascoltatori di Blu Radio Veneto che questa è Blu Time Live, stiamo intervistando Filippo Marcheggiani per la presentazione del suo lavoro Disperato Erotico Rock. Lo dico tutti insieme, anche se alla fine manca il fiato, ma si dice così, me l'ha confermato anche Filippo. Un bel colpo di diaframma e via. E via. E quindi FM, ricordiamo il nome della band, del progetto musicale, con Filippo Marcheggiani in prima persona a scrivere i pezzi e anche dare nuove sensazioni a delle cover che naturalmente Filippo ha scelto. Ora, visto che questa è una trasmissione live acustico, c'è di turno la chitarra, una bellissima Ovation che ti sei portata appresso. Inseparabile. Con quanti buchi? 22, ecco qua. Quindi... Una volta li ho contati. Una volta ho contato anche tutte le gallerie del tratto autostradale della Liguria. Che a volte non cioè, passa sono mai. Stato costretto. una sorta di nonnismo quando ero ancora giovanissimo, il primo anno di tournée con il banco. Partivamo proprio da 20 miglia, adesso te le conti tutte, vogliamo sapere quante gallerie ci sono. Esatto, ho passato la mattinata a contare le gallerie. Guardate, come diceva il banco, l'evoluzione della specie non ha mai fine, soprattutto esatto. Anche delle gallerie. Che ne nascono sempre di nuove o come si ricordava anche, prima anche le rotonde, le rotonde a Padova non si fa in tempo che spunta una rotonda e non si capisce sì. Più dove si è. È vero, bravissimo, è stata la prima sensazione anche di noi padovani in questo caso, sì, figuratevi uno noi da Roma insomma. Sì, no. Ok, allora spazio live con un brano che è anche inserito all'interno del tuo lavoro, Filippo. Prima lo suoniamo e poi lo commentiamo, ok? Ecco qua, Blu Radio Veneto, Filippo Marcheggiani FM. Cambia tutto ma non cambia niente, cambiano stagioni nella mente della gente che non ha più idee. Cambiano i colori della vita, cambiano le cose che stringevo tra le dita. Credevo di avere tutto e non avevo niente, ed ora sorrido ad un pensiero disarmante. Non vedi che tutto cambia e cambierà? Lo sguardo della città, l'odore della realtà, già tutto è passato e va, ma non è diverso ciò che cambia. Cambiano le voci dei bambini che giocano mentre sto scrivendo le canzoni, e provo a ritrovare la mia voce in quel cortile quando la luce del futuro era sottile. Non è diverso ciò che cambia e cambierà, lo sguardo della città, l'odore della realtà. Tutto è passato e va, ma non è diverso ciò che cambia. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Rivolgiamo ancora una buona serata ai nostri ascoltatori. Questo è Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, e sempre Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Questa sera ospite nei nostri studi Filippo Marcheggiani per presentarci il suo progetto FM, si chiama così, quale appunto l'iniziale del suo nome, però per esteso, è da ricordare, proprio per poi anche cercarselo in internet. Esatto. Se uno trova FM, può trovare magari il simbolo di una radio libera, ma può trovare anche appunto qualche notizia in più che riguarda Filippo Marcheggiani, venuto per presentarci il suo lavoro intitolato Disperato Erotico Rock. Hai preso fiato questa volta prima. Scusami. No, no, ho sentito proprio la pausa sì, funzionale. Sì. Tanto per dare bene, mi fa piacere, diciamo, che su internet mi si confonda con qualche radio libera come la vostra, perché ultimamente le radio libere sembrano sempre di meno, ecco. Ho avuto delle brutte esperienze in merito. È vero, oppure è vero che le radio libere sono rimaste sul web perché mantenere la frequenza costa. Sì. Per cui naturalmente... Questo è anche il motivo per cui poi si facciano delle, insomma, si cerchi un po' di arrabattare denaro un po' qua un po' là. Vabbè, questo dai, parziale giustificazione di qualche radio che magari forza un po' la mano con i musicisti e con indipendenti, cercando di estorcere, insomma, denaro per passaggi. Questo perché sei stato scottato, vero Filippo? Ma scottato da una vita che sono scottato, cioè so che se voglio andare alla Radio X devo andare a Roma, certo. Si dice devi bussare con i piedi, cioè arrivi con la valigiona, porti i tuoi 20, 30, 15, 10 mila, che magari ci potevi fare un disco più bello, un video più bello, invece no, li devi dare alla radio. Adesso tra l'altro non funziona nemmeno tanto più così nelle radio grandi. Ho ricevuto una mail, diciamo, simpatica di una radio locale del nord-ovest, dove insomma, alla domanda tipica del mio ufficio stampa, che quando invia il materiale per far conoscere il progetto alle radio libere, alle radio indipendenti, alle radio, diciamo, del circuito locale, chiedendo vi farebbe piacere, avreste piacere di metterlo in programmazione, cordiali saluti, è stato risposto un secco pagando si fa tutto punto esclamativo saluti, ecco. Io veramente non mi sono stupito, cioè, chiaramente sono rimasto infastidito dal modo, dalla modalità, dalla tracotanza con cui una radio che comunque magari non so quanti grandi artisti ospiti nei suoi studi, non che io mi ritenga un grande artista, comunque insomma ho scritto una piccola parte di questa storiella della musica italiana con il banco con cui sono da 18 anni, e insomma mi aspettavo magari un po' di tatto in più. E quindi ho deciso di pubblicare questa mail su Facebook, chiaramente oscurando la radio, ma non oscurando alcuni link che non erano assolutamente da diffondere in pubblico, me ne scuso, spero che nessuno mi faccia causa per questo, non la radio naturalmente, ma la mia etichetta, cioè il mio distributore online. Sì. Insomma, volevo che la gente, gli ascoltatori, cioè, perché i musicisti lo sanno, infatti tutti i musicisti hanno scritto beh, ma di cosa ti stupisci, funziona così, ormai è tutto così. Ma gli ascoltatori dovevano capire un po' come veniamo trattati noi dalle radio, che sono dei contenitori dove si fa ascoltare musica, quindi la musica è al centro dell'attività di una radio che poi comunque produce degli indotti pubblicitari e quant'altro. Che poi avere anche artisti non sempre è facile, voglio dire, in mezzo, e poi anche Alberto Prisco, che è il nostro organizzatore delle interviste, si scontra parecchie volte anche con questo genere di come dire, anche al contrario, se vogliamo dirlo. Sì, devo dire che effettivamente l'atteggiamento dei musicisti a un certo punto è anche quello contribuisce a creare questo clima, insomma, perché molti musicisti poi si dimenticano da dove sono venuti. Quello soprattutto, sì. Io vi giuro, vi prometto che quando mi richiamerete, quando fra 10 anni sarò l'artista rock più famoso d'Italia, io vi verrò a trovare molto volentieri. Se non lo faccio potete insultarmi pubblicamente, non sporgerò mai causa, perché sarei l'ennesimo pupazzo. Allora ti ricordo che mette la maschera e va a fare il capo popolo e allora ti ricordo che per questo ci vuole coerenza nella vita, la coerenza paga. La trasmissione è stata registrata. Esatto. Quindi totalmente. Allora riprendiamo parlando di quello che abbiamo ascoltato. Non è comunque diverso. Volevo dire una cosa, prego, risposta a questa famosa radio che pagando si fa tutto, ma non si è proprio niente. Scusami, questo è un piccolo inciso che mi sentivo di dover dire. Benissimo, allora non è diverso ciò che cambia, quindi il titolo della canzone che ci siamo ascoltati nella tua versione acustica, poi chi avrà la fortuna anche di entrare in possesso del disco potrà naturalmente ascoltarsi la traccia nella versione un po' rock, diciamo. Sì, è un brano decisamente rock, anche se è nato in acustica con questa chitarra, ed è un brano che mi porto dietro anche questo da tanti anni. Uno dei primi che ho scritto quando ho partorito il progetto FM, anche se non lo sapevo, e diciamo nella fase di lunga gestazione, 9 anni invece di 9 mesi, insomma, diciamo, dai. Certo. Ho capito male. È sempre stata una gestazione. Ho perso i tempi. Sì, sì. E diciamo che questo è un brano che parla del cambiamento, che è una delle cose che mi contraddistingue. Io sono una persona che ama cambiare, ho cambiato negli anni molte cose, ho cambiato look, ho attraversato parecchi generi musicali. E ho fatto esperienze di vita diverse, non ho mai però rinnegato quello che ero stato prima. Ecco perché dico che non è diverso ciò che cambia, cioè si cambia, si muta, tutto scorre, come diceva il famoso filosofo, ma l'esperienza ci arricchisce, ci fa diventare qualcosa di sempre più grandi, sempre più ricchi. E in questo disco, secondo me, c'è tutto quello che ho raccolto in questo lungo viaggio musicale e non, l'ho messo un po' tutto insieme. Ecco perché appunto a volte è difficilmente catalogabile, perché ci sono canzoni d'amore da veramente da pop song, però magari mascherate con un arrangiamento molto molto rude, con degli assoli di chitarra molto lunghi, perché non mi sono posto il problema di piacere a qualcuno in particolare, insomma. Poi, o di piacere a tutti. Hai citato anche Duke Ellington, hai scritto, hai detto, ci sono solo due. Duke Ellington disse all'epoca: ci sono due soli generi di musica, quella buona e quella cattiva. Ma tu hai fatto una musica buona nel tuo disco, una sorta di DNA di viaggio musicale. Guarda, quello è l'unico genere musicale che mi interessa. La musica buona. Infatti, meno male che qualcuno se ne è accorto, perché poi ci sono delle cose, se ne sentono tante, insomma. È la sintesi di tutto, praticamente, sintesi del tuo percorso. È la mia sintesi, esatto, la mia sintesi, che non si per una volta non mi sono curato, io non so cosa stia passando alla radio in questo momento in senso generale, non sto seguendo la moda e il modo di fare musica oggi, soprattutto nel circuito mainstream, ma non sto seguendo nemmeno il circuito alternativo. Sto cercando di portarmi appresso il mio zaino di esperienze, di bella musica, dei miei dischi che mi piacciono tanto. Ne trovo alcuni sulla mia strada che ancora ad oggi sono validi. Ne cito uno tra tutti, Padania degli After Hours. Quello nuovo, sì. Un disco molto difficile. Targa Tenco 2012, sì, molto criticato dai fan degli After Hours. Io lo trovo un disco splendido. Da non fan degli After Hours, o meglio, io sono l'ho scoperti molto tardi. E io ho trovato una maturità in questo disco, una proposta e una grandissima ricerca musicale che va a sfociare anche nella musica contemporanea classica, perché Xavier Girondo è un grandissimo chitarrista, un grandissimo esperto di musica, e però poco capito, forse perché arriva in un momento in cui la gente si aspetta altro da te. Ma non invece è poco capito dai fan? Quelli della prima ora lo hanno capito assolutamente. Io sì, qualcuno ha detto vabbè, non sarà mai Jeremy, però non è Jeremy, però secondo me è anche meglio, perché nel frattempo gli After Hours sono maturati, sanno suonare e cantare molto meglio, e dicono delle cose, secondo me, che al di là del manca magari quella vena molto spettacolare del nichilismo del Manuel Agnelli della prima ora, però io mi trovo molto in sintonia invece con brani come Padania, brani come La tempesta in arrivo, cioè c'è un contenuto profondo e c'è una maturità, c'è il chilometraggio, come diceva un grande bluesman. Manuel ha voluto riportare Xavier, come hai detto tu, è un musicista straordinario, ha delle determinate corde a cui non arriva nessuno. È un quindi Picasso della chitarra. Esattamente, elettrica. Riportando Xavier, ha riportato il rock, il genere, il folk, il momento musicale che lui voleva ritornare, probabilmente quello per cui Manuel ha fatto questo sconvolgimento. Certo, certo. E credo che gli After Hours abbiano ritrovato una freschezza dalla loro storia, insomma. È chiaro, chiaro. Non siano andati a fare magari a scimmiottare qualcun altro di più giovane, più bello, più impomatato, oppure magari non abbiano fatto finta di essere un gruppo che negli anni 80 è passato dal essere un grande gruppo rock, diciamo di rottura con certi schemi, a un grande gruppo pop, e hanno fatto magari lo stesso percorso chiamando lo stesso produttore e facendo alla fine perdendo completamente la loro vena creativa. Non mi sto naturalmente riferendo ai Coldplay, però poi succedono queste cose brutte. Lo show business fa molto male, male. Uno, ogni tanto un musicista si dovrebbe accontentare di ciò che è, del pubblico che ha, e andare avanti per la sua strada. Tra 20 anni poi magari ti ritrovi la gente che riempie i cinema a guardare il tuo concerto di celebrazione fa la fila per andarti a vedere, invece di cadere nel dimenticatoio. I Radiohead non cadranno mai nel dimenticatoio, no, assolutamente, no, perché hanno portato avanti un percorso assolutamente autonomo e molto interessante. Sono una band che hanno, secondo me, che faranno la storia della musica rock. Hanno fatto la storia della musica rock degli anni 90 e 2000. Perfettamente d'accordo. Abbiamo divagato un po'. Scusate, perso. Sono il dottor Divago. Il dottor Divago, benissimo. Allora, no, ricordiamo agli ascoltatori che stiamo sicuramente conversando con Filippo Marcheggiani per la presentazione del suo Disperato Erotico Rock. E ci ascoltiamo un pezzo sempre da questo disco. Questa volta è una cover, poi torniamo a commentarla insieme. Blue time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sicuramente più di qualche ascoltatore avrà detto: ma io questa canzone già la conosco. A Patriot to Arm mi sembra sia, ad esempio, di un certo Vasco Rossi, no? No, Ligabue? No. Chi è questo rocchettaro? Siamo ancora lontani, vediamo un attimino. Questo personaggio così rabbioso. No, in realtà nella versione originale non era così rabbioso. Sempre manda dei messaggi molto forti. E stiamo parlando di Franco Battiato, che per l'occasione, per Filippo Marcheggiani, che abbiamo qui questa sera, diventa Franco Foo Fighter Battiato. Esatto. Allora, perché ci hai messo in mezzo il nome Foo Fighter? Il gioco è nato perché comunque la versione di questo... questa Patriots ricorda un po' come sonorità quella dei Foo Fighters, che sono una band, un'altra band che per me adesso rappresentano un grande riferimento, non solo nella sonorità, anche nella storia, nella coerenza di fare musica in un certo modo. Tra l'altro li ho visti dalle vostre parti, li ho visti qui, insomma, in provincia di Udine quest'estate, hanno fatto un concerto devastante. Sono durissimi dal vivo, favolosi. Poi suonano tantissimo, non si risparmiano veramente. E questa è una cosa che le band moderne spesso non fanno. Ritornando al discorso di... Ma noi non sono una band moderna. Dove partono i Foo Partono Fighter? Da Nirvana, partono da là, partono sempre da là, c'è poco da fare. Ma sono sempre grandi, però. Dicevamo, insomma, ho giocato su questa cosa, riportando alla luce un brano che fino a qualche tempo fa non conosceva nessuno. Gli dicevi: sai, ho fatto una cover di Franco Battiato a Patriots to Arms. Dice: qual è? Non la conosco. Poi è uscita la versione di Subsonica e tutti facevano: bello la versione del pezzo di Subsonica che hai fatto, Filippo, molto bello. Succede sempre così, quando non ha preso piede nell'ascolto del grande pubblico e lo hanno conosciuto sono alcuni esperti, perché forse erano gli altri singoli che andavano per la maggiore all'interno dell'album di Battiato. Allora, se uno lo riprende, poi viene ricordato come quel pezzo ripreso, ma ce ne sono migliaia di altri artisti anche degli anni 50 che poi vengono ripresi negli anni 90 da qualcuno e poi si pensa sia assolutamente suo. Infatti un'altra cosa che vorrei togliermi tra un prima o poi lo farò, uno sfizio di fare una versione rock di un brano di Luigi Tenco. Lì è un po' più difficile. Quale? Filippo? Adesso devi dirmi quale. Un giorno, guarda, c'era una versione, facemmo una volta una versione di Un giorno dopo l'altro con Magnolia, la band con cui collaboravo precedentemente, che era interessante, molto Radiohead. Cosa ne pensi, che a proposito del premio Tenco, che Baccini ha vinto il premio Tenco con la riversione dei pezzi di Tenco? Ne penso che è stata premiata una cover band, un tributo, non un artista che propone qualcosa di nuovo, però è quasi un premio ad memoria di Luigi Tenco. Poi io di Baccini ho un'ottima considerazione, secondo me è un artista molto interessante, molto istrionico, lo ricorda anche nei tratti somatici, sì, no? Quindi forse purtroppo mi sembra figlia questa cosa di un po' di questa tendenza italiana di andare nei locali solo ad ascoltare le band che fanno tributi a gruppi famosi, magari si mascherano un po' come loro per assomigliarli sempre di più, che ormai la fanno da padroni nei locali, cioè le programmazioni locali sono piene, gonfie di cover band, tanto più che un noto locale romano, dove tra l'altro ho anche suonato con il Banco e credo risuonerò fra poco, mandava l'anteprima della sua programmazione stagione 2012-2013 sponsorizzando la spettacolare serata con il tributo a Tiziano Ferro. E anche lì ho avuto da ridire sulla cosa in modo velato, e c'è stato un piccolo scambio di idee con questi ragazzi che si vantavano di poter ospitare uno dei chitarristi di Tiziano Ferro a questa serata, che naturalmente avrebbero pagato lautamente per questa prestazione. Io gli ho spiegato due secondi com'è il discorso, chi ero, chi non ero, cosa avevo fatto, dove avevo suonato e perché, e sono andati, diciamo, da dove sono venuti, non si sono più fatti sentire e si sono beccati, insomma, i miei le mie considerazioni sul loro ruolo all'interno della musica italiana rispetto al mio. Non lo dico perché siamo in fascia sempre protetta in, questa, in questi luoghi. Assolutamente. Diciamo, io lotto, voi fate qualche altra cosa nella vita. Vabbè, comunque, allora, non divaghiamo, dottor, certo, Divago, certo. Qui. Allora, divagando. Il caffè qui è veramente perfetto, ragazzi. Perfetto, è una carica incredibile. Bene, ne vuoi un altro? No, meglio di no, sennò qui non chiudiamo più. Allora, Filippo, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, sì, come fare per entrare in possesso del tuo CD. Tra le altre cose, poi ricordiamo anche com'è riconoscibile. Bravissimo. Allora, il mio CD non si trova nei negozi, non si trova negli autogrill, anche se un periodo volevo, cioè, fare un'azione quasi terroristica. Quasi in piazzo due copie ad autogrill, voglio vedere che succede. Tanto prendono i soldi loro poi. Se ma piazzi, no, ma se non ci avrebbero, non c'ha il codice a barre, quindi non avrebbero potuto. Cioè, un disco edito che ha tutto bollino, è regolare. Assolutamente. Guardia di finanza, sappiate, fa tutto fatturato. Però si è acquistabile in due modi: o in digitale su iTunes, sugli store digitali più importanti, Data, Playme e via dicendo, sì, grazie al lavoro di Made in Italy, che è un aggregatore importantissimo in Italia per quanto riguarda la musica su web e che mi ha subito reclutato, quindi l'unico contratto che ho firmato è stato con loro, avendo poi totale libertà, insomma, di movimento musicale, insomma, non ho avuto nessuna coercizione da parte di loro. E poi si può trovare in versione fisica, chiaramente online, con spedizione compresa, sul sito di Tre Lune Records, che distribuisce online la versione fisica, che è molto carina, ha un bel jewel box stondato molto bello che ci ha costato un sacco di soldi, eh. E la cosa principale è la copertina, dove trovate, sì, me, sì, a testa in giù, che sto praticamente disturbando un fantastico gatto rosso che sta in quel momento della foto, mi sta praticamente ringhiando, sembra una sorta di leone, di tigre. Praticamente tu in questa copertina gli stai tirando l'orecchio, no? Sì, sto tirando l'orecchio e lui mi sta praticamente per mordere il naso. Però è stato fotografato nel momento prima. È stato, sì, è stato del tuo ricovero, voglio dire. Esatto, sì, poi ho passato 20 giorni al massillo facciale. Quello è il mio gatto Garfield, e quella è una scena di vita quotidiana. La domenica mattina stavo giocando col mio gatto sul letto, la mia compagna fotografava il, sì, gatto, perché lei fotografa solo il gatto, non ha, sì, e quindi io sono capitato in mezzo e è uscita fuori questa foto che è diventata famosa, tra virgolette, come il mio profilo Facebook. Sì, che è l'unica foto che hai tra le altre cose, perché fotografando solo il gatto. Esatto, direi sì. Poi ho dovuto pagare altri fotografi per farmi fare due foto in più, perché sennò certo, non avrei avuto nessuna foto da pubblicare. Alcune me ne sono fatte addirittura da solo con l'iPhone, una cosa che tra l'altro mi è piaciuta molto, perché ci sono delle foto in quel booklet che sono abbastanza insignificanti dal punto di vista stilistico, ma che mi raccontano un po' i momenti del disco, della lavorazione, quindi diciamo che tutta la mozione d'affetti è stata praticamente riportata in tutte le sue forme nel disco, che è assolutamente etichettato come un disco in produzione propria, un po' come si fa il vino dalle mie parti a Castellino Mani. Sì. Il disco non è un disco autoprodotto, è un disco fatto in produzione propria. C'è chi si ricorda ancora la canzone Lo vedi, ecco Marino, no? La Sacra Ciò dell'Uva, Fontana che danno vita. E questa è proprio la tua città natale. La mia città natale, la mia sagra, che purtroppo ultimamente ha ospitato una sedicente presidente della regione a sfilare la processione solenne. Vabbè, non ho capito, io so che la presidente della regione è dimissionaria, però sì, quel giorno era ancora presidente della regione. Ma la cosa bella è che non è successo nulla, tutto si è svolto con la massima tranquillità, per carità, giustamente per rispetto della fede di chi crede, che insomma fa queste cose con la massima, il massimo senso di spiritualità possibile. Certo. Ci ascoltiamo un altro pezzo dal vivo, sempre con Filippo Marcheggiani nel suo... Ma devo anche suonare oltre che... Sì, sì, devi anche suonare, mi dispiace. Ah, già, hai ragione. Lei lo fai anche questo, per promuovere il disco si fa non anche questo. Non capivo questa cosa pesante addosso, sì, che sì, cosa sì. È una chitarra, io la vedo da qua. Allora, ascoltiamo il puzzle e poi torniamo a parlarne assieme a Filippo Marcheggiani e al suo progetto che si chiama FM. Stanotte sono troppo stanco per dormire. La scatola è vuota, nella stampa cerco ciò che sfugge alla ragione, anche se il mondo dice che non esiste un senso, come mai io ci ripenso. Aprimi gli occhi, non posso più aspettare che mi vengano a svegliare. Devo trovare il pezzo mancante che completi la visione, perché non posso credere che ci sia un errore. E come mai ora mi sento come in un puzzle, quando ogni incastro sembra sia perfetto, qualcosa manca e non rimane che un gioco di cartone che non prende forma mai. Baciami gli occhi velati dalle lacrime che fanno ritrovare nel sonno profondo, in fondo al quale cerco una chiara soluzione. Ho tutto il necessario, è tutto al posto giusto, e come mai il tuo non è questo, come in un puzzle, quando ogni incastro sembra sia perfetto, qualcosa manca e non rimane che pezzi di cartone, come in un puzzle, quando finalmente è tutto al posto giusto, qualcosa manca e non rimane che un sogno, un'illusione. Al proprio posto, qualcosa manca, non rimane che un sogno, un'illusione che non prende forma mai. Siamo sempre con Filippo Marcheggiani, Disperato Erotico Rock, si intitola il suo lavoro, con il progetto FM che vede coprotagonisti con lui anche altri musicisti che arrivano dalla band Caos Calmo, si chiama così, proprio tutto attaccato, da non confondere col Caos Calmo che era un film di Nanni Moretti, bravissimo. Mi sembra ancora di un po' di tempo fa, ma forse proprio per quello hanno preso il nome, no? Sì. Sono stati ispirati, tra l'altro, sì. Caos Calmo doveva essere il nome dei Magnolia, mi confessava Elvis, doveva essere il nome dei Magnolia, poi invece scegliamo i Magnolia, sempre dal famoso film, certo. E poi vabbè, loro si sono presi questo nome molto bello, Io poi mi sono preso loro, insomma. Ma diciamo che c'è stata una sorta di adozione a distanza, sì, un po' reciproca tra me e Daniele Raggi, che è quello che proprio mi ha stanato più di tutti. Mi ha detto: tu devi fare le tue cose, facciamo le tue cose, vieni a suonare i miei concerti, così fai le tue cose insieme a noi. Ed è nata così questa collaborazione. Gli devo molto a questi ragazzi, che tra l'altro stanno girando da queste parti tra Veneto, quindi ad occhiate programmazioni dei locali, perché Caos Calmo sono in giro con il loro primo EP che si chiama Le cose non sono più le cose. Allora diamo un altro compito importante al nostro direttore artistico Alberto Prisco, affinché lui entri in contatto a stretto giro con i Caos Calmo e, perché no, si arrivi a fare un'altra programmazione live acustica qui all'interno dei nostri studi di Blu Radio Veneto, magari anche assieme a Filippo. Perché no? Sì, i tuoi altri impegni lo consentono, perché certo, ultimamente sei fuori un giorno sì, un giorno sì, anche. Sì, beh, settimana scorsa io venivo qui a Padova, allora andavo a Reggio Emilia, ci siamo incrociati in autogrill, insomma, ci siamo fatti una rustichella insieme, parlando dei nostri concerti. Il panino da dimenticare, rustichella, bellissimo. Indimenticabile, soprattutto dal giorno dopo. Sì, a proposito di Magnoli, ecco, citiamo un secondo, c'è una cosa molto interessante. A proposito di coerenza, tu con i Magnoli hai fatto un tributo, un pezzo dei Diaframma. È più coerente di Federico Fiumani, non c'è nessuno in giro per l'Italia, grande secondo Federico. Me. Come Io non dimenticherò questa... mai la faccia di Federico Fiumani quando ha sentito la nostra versione di L'amore segue i passi di un cane, sì, vagabondo. Esattamente. Che tra l'altro sta nel suo disco di tributo, che è Il Dono. Il Dono, sì. Allora, guarda, il responsabile di questa cosa è stato Elvis, cantante dei Magnolia. Che saluto, perché penso gli fischieranno le orecchie come non mai in questo momento. Sì. Che aveva fatto una versione chitarra e voce di questo brano. Chi lo conosce sa che è un brano, dire sgangherato, è una sorta di barbonaggio della musica, cioè è un brano di una poesia, di una poeticità enorme, suonato veramente e cantato in una maniera quasi volutamente sguaiato, proprio parole buttate lì, stonature. E Elvis, che ha una voce, insomma, già detto, insomma, cantava Jeff Buckley. Che non è mica facile cantare, no, Jeff, esatto, Buckley, assolutamente. È molto preparato. Ne ha fatto una versione molto aulica, cioè le ha recuperato proprio nella sua bellezza anche musicale. E ne facemmo una versione, secondo me, molto bella, molto che strizzava un po' l'occhio al wave inglese. Secondo me è stato una delle versioni più riuscite di quel disco. Poi è chiaro che i puristi dicono che ma i Diaframma non si toccano, perché, ma che cosa avete fatto? Quelli, perché quello si chiama Pacino e quell'altro si chiama Scorsese, sono più bravi di te comunque, anche se hanno fatto una cosa buttata lì in 4-4-8 giusto per esserci. Però vabbè, queste sono le cose così un po' provinciali della nostra Italietta, per cui se non sei nessuno la gente ti ascolta anche con meno attenzione di quella che ti... L'importante è ad essere coerente, e i Diaframma come te sono stati sempre coerenti, non sono mai stati cullati dalla discografia. E infatti, se penso, insomma, a quello che hanno fatto i Diaframma questi anni, sono un po' preoccupato per me stesso. Allora benissimo, stiamo parlando col dottor Divago, come si, esatto, diceva in principio di trasmissione. Potrebbe essere un altro titolo, sì, di un disco questo. Bene, bene. Il Filippo... terzo, perché il secondo ce l'ho, che si chiama Oggi mi voglio bene. Ecco, perfetto. Allora già abbiamo... è già in lavorazione. Bene, poi magari ascolteremo anche un pezzo. Assolutamente. Sì. Perfetto. Allora, non abbiamo parlato di Il Puzzle. Ah, sì. Che pezzo mancava, Filippo, in questo puzzle? Ancora lo sto cercando. Cercando, poi insomma vado in giro, vedo cose, faccio cose, vedo gente, come il famoso film sempre Nanni Moretti, sì, di qui sopra. Mm-hmm. Il puzzle è quella tessera mancante che a noi manca sempre, no? Nella vita abbiamo sempre qualche rimorso, rimpianto, occasione persa come nella stazione, qualcosa che ci fa un po' scombinare il tavolo. Di questo parla questo brano, chiaramente scritto in un momento in cui di tessere ne avevo perse per strada un po' tante, non solo una. Però la ricerca di questi tasselli poi è il sale della vita, il viaggio, gli incontri che si fanno, che ti permettono poi di fare esperienze, di scrivere brani come questi, che comincia con Chiudimi gli occhi, stanotte sono troppo stanco per dormire. Praticamente io l'ho scritto dopo aver chiuso una telefonata con la mia migliore amica, che è anche la mia prima fan, la mia prima sostenitrice, Margherita, che saluto se magari ci ascolta. Ciao Margherita. E dicendo: guarda Margi, io oggi era mezzanotte, sono talmente stanco che non riesco a dormire. Vabbè, allora ci siamo parlati, avevo appena scritto un altro brano che non sta su questo disco ma starà sul prossimo. e ho chiuso il telefono e ho cominciato a scrivere il puzzle, l'ho scritta così di getto quella notte. E quindi vedi, lo scambio continuo, la ricerca e parlare con le persone è il sale della nostra vita di musicisti, di artisti, e secondo me è quello che ci permette di scrivere e di portare avanti cose anche più autentiche, a prescindere dalla qualità culturale di quello che stiamo facendo, no? Ecco, per esempio Buon Fiumani, che non è mai stato né un mostro di voce né un grandissimo musicista colto, Fiumani scrive delle cose incredibili che si sente che vengono dalla strada, vengono dall'asfalto, hanno appunto il chilometraggio, e secondo me questa è la cosa fondamentale nella musica, comunicare cose vere, reali, perché sennò diventa un manierismo da una parte oppure dall'altra, insomma, non continua autoriproporsi come uno spot commerciale, no? Un business colossale. Esatto, ormai sembrano tutte pubblicità dei deodoranti le canzoni che passano in radio. Non qua però, non qua. Ma non è la radio questa è la centrale della polizia dei Vado, io sono sotto interrogatorio qui. No, questa chi è poliziotto buono e poliziotto cattivo, sì, no? Sì. In mezzo c'è l'imparziale. Bene, allora sempre con Blue Time Live, tanto per non portare a confusione i nostri ascoltatori, all'interno di Blue Radio Veneto stiamo piacevolmente conversando con Filippo Marcheggiani, il suo progetto FM Disperato Erotico Rock. Ci ascoltiamo un altro pezzo che è anche il singolo che sta passando sulle radio, tra le radio in questo momento. Quelle che hanno piacere, insomma. Quelle che hanno piacere. Noi ce l'ascoltiamo perché abbiamo piacere di ascoltarlo. Grazie. Sole, brucia la pelle, brucio le tappe su questa strada piena di sale, secca la pelle, secca la gola, poi le parole mi prende alle spalle, cariche d'odio e di rancori di cui mi scrollerò tra un metro, sarà leggero lo smarrimento e questo senso di nostalgia che se mi guardo indietro ancora un metro posso ricordare tutto quello che ho lasciato, ma non sono preoccupato perché viaggio solo. C'è vento, mi prendo il tempo di raccogliere un pensiero, quasi mi pento, poi ricomincio a camminare e non mi guarderò più indietro, adesso metro dopo metro riesco già a vedere chi mi aspetta e chi se n'è già andato. Solo per il gusto di Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato l'aggressività contenuta all'interno di questo pezzo di Filippo Marcheggiani, si intitola Viaggio solo, strade nuove, ed è un, come dire, un urlo a quella che è sempre la nuova scoperta di nuovi mondi, sempre viaggiando comunque da solo, sì. Da protagonista comunque. Sì, da solo. Beh, questo, allora io... Sì, da solo inteso sì, nel sì. senso di cogli le tue emozioni e le trasmetti in musica nella tua... Queste sono sì. Sì, un po' le risonanze di quei silenzi lunghissimi che si hanno magari stando in macchina per molte ore in viaggio, come faccio spesso, insomma, anche per venire qui da voi, da Roma, e succede poi che si riflette su tante cose, no? Si riflette che poi alla fine questi viaggi hanno sempre come finale ritorno a casa. Che per me è una dimensione, io adoro la dimensione casalinga. Oggi c'era un ragazzo, un amico su Facebook che ha pubblicato una foto della scopa, lo scopettone, l'aspirapolvere, la serie, questo sarà lo strumento che suonerò oggi, ragazza. E io ho detto guarda, beato te, perché io sono 4 weekend che sto proprio sogno di avere un weekend libero per poter pulire casa mia, quindi certo. Sono un animale casalingo, sono come un gatto, infatti. Ricordiamo che l'aspirapolvere fa parte degli strumenti a fiato, nel senso a fiato? Che sì, sì, che lui mette l'aria e voi mettete il fiato, nel senso che per ah, farla certo, andare avanti esattamente. Dietro, no? È vero. Per questo. Giusto. E quindi okay. Questi viaggi poi riportano sempre la dimensione, è la cosa bella, come diceva, non ricordo mai chi, che un viaggio non è bello per il luogo che si sceglie di raggiungere, ma per tutto il percorso che si fa. Sì. E questa è un po' la storia, soprattutto è una storia che ricorda come ci si perde un po' a volte delle persone importanti nella vita, però poi quelli veramente importanti, veramente fondamentali della tua vita, te li ritrovi sempre lì ad aspettare. Certo, insomma. Viaggiando con il banco, quindi sì. I vecchi protagonisti delle scene musicali che giusto quest'anno sono usciti con l'album 40, proprio per festeggiare i 40 anni di attività, ma forse ce n'erano ancora di più alle spalle, perché sì. Bene o male deve essere nato nel 68. Se consideriamo sì, gli anni precedenti alla venuta sì. di Francesco Di Giacomo, sì, però... 40 anni dalla pubblicazione di Salvadanaio, del primo sì. album del banco, insomma, questo era l'evento che abbiamo festeggiato con moltissimi fan, anche qui, insomma, grandissima accoglienza. E stiamo ormai da un anno facendo questa tournée, insomma, abbastanza estenuante, mi dicevi anche tu Flavio prima, insomma, ti sei reso conto che nonostante l'età non sia più proprio verdissima per i miei compagni di viaggio, insomma, ci facciamo delle belle... Ma questa differenza generazionale, appunto, vi porta a chiacchierare? Tu avrai scoperto senz'altro quelli che sono stati i 22 anni prima, diciamo, del tuo arrivo. Beh, anche se sono già 18 anni che sei sì. parte attiva del banco. Incredibile, se facciamo altri 4 anni di carriera supero la metà della storia del banco. Sì. Ne ho sentite, guarda, di aneddoti ne ho sentiti tanti, ne ho visti, sono testimone oculare di tante di quelle cose favolose, perché comunque viaggiare con il banco è intimamente una cosa che ti arricchisce ogni momento, perché insomma le persone umanamente, culturalmente e artisticamente sono di grandissima levatura. E poi sai, io mi trovo bene con loro, perché io sono sempre stato... mi sono sempre definito vecchio dentro, no? Quando avevo 20 anni volevo farmi la maglietta old inside, e adesso sono vecchio anche fuori, perché insomma i miei 36 li ho compiuti, sì. Anche se cerco di mascherarli il più possibile con questi capelli improbabili, insomma, però devo dire che è stata per me una crescita continua, e lo è ancora, perché ancora mi trovo a crescere, a imparare. Questo è un grande vantaggio, perché alla mia età, insomma, io ho quasi 40 anni, insomma, sono un nuovo fatto, hai sempre la sensazione di essere tu l'allievo e mai il maestro. E questo ti permette di rimanere umile e di essere concentrato sì sulle tue caratteristiche, sulle tue qualità, ma anche sui tuoi difetti e sulle tue su quelle cose in cui puoi crescere ancora di più. Che facendo poi i conti, tu sei nato quando il prog prima generazione in Italia stava un po' declinando, no? Quindi erano gli anni dal 70 fino al 75, 76. Io sono nato nel 76. Esatto. Nel 76. Il primo concerto del banco l'ho visto in carrozzina a perfetto, sei mesi. A sei mesi in carrozzina. Quindi... Il banco ha rappresentato nella mia vita sempre un... Ecco, c'è sempre stato un filo che ci ha unito. Sì. Alla fine ci siamo incontrati perché doveva essere così. Un'altra cosa, un altro filo che ti ha unito è la chitarra elettrica. Tu hai detto la chitarra elettrica distorta il suono del rock. Assolutamente, io sono assolutamente un rockettaro. Esatto. Cioè tu sei entrato nella dimensione del banco, che è musica prog, ma non è vero, è musica rock al 100%. Sì, perché poi prog... Prog vuol dire niente, prog vuol dire... È come indie, è come alternativo, è come... Però è rock, quello che conta è rock. È rock, esatto. Rock, buon rock. Il buon rock, soprattutto il buon rock. Il rock che non sia lo scimmiottare esattamente certe culture che non ci appartengono, perché partiamoci chiaro, insomma, non potremmo mai essere Bruce Springsteen, Bob Dylan o Creedence Sweetwater Revival oppure gli AC/DC, perché non abbiamo quel tipo di cultura musicale, però possiamo fare del buon rock come fa Franco Battiato nei suoi testi, magari. Ma anche lo fa dal vivo anche il rock. Tra l'altro, io l'ho visto quest'estate, devo dire che è un concerto molto coinvolgente nelle parti in cui suonava la band insieme all'orchestra. E comunque poi Franco, insomma, dicevo, è tutt'altro che tenero e dolce, come mi può sembrare dalla sua voce un po' esile, da questi, la sua compostezza. Se lo fate arrabbiare, Franco, insomma, certo. Vi invita, diciamo, molto comodamente. Come dice il Galateo, quando ce lo mandi uno, devi sempre indicare con la mano la giusta la direzione. L'altra cosa, è stato qui ospite da noi anche Davide Ferrario, che è il chitarrista. Ecco, sì, esatto. Sì. Mi è piaciuto Franco molto, Battiato, mi è piaciuto molto, perché l'ho trovato molto, molto essenziale, poco session nel suo modo di essere, sì. Addirittura c'ha questa sua postura quando fa gli assolo, si ricurva su se stesso, si piega in due come una tavola da stiro, però effettivamente mi è piaciuto molto, tra l'altro grandi cori, grandi backing vocals, ha una voce interessante, lo sosteneva in alcuni brani, è bello, perché poi vedi una persona entusiasta di quello che sta facendo, e te credo, però tante volte vedi gente suonare qua con i mostri sacri della musica, stanno lì a far compitino perché loro sono seri. Ma l'ha pescato qua, vedi Franco attraverso il suo entourage, l'ha pescato da queste parti. Ah, di qui? Di Cittadella. Quindi proprio un saluto a Davide Ferrario, i miei più grandi complimenti, è stato un concerto molto bello, l'ho un po' invidiato, devo dire la verità, però poi insomma pure io mi sono tolto qualche soddisfazione nella vita, lasciamo un po' di spazio agli altri. Direi proprio di posso sì. Fare assomiglia tutto, va bene. Però se vuoi fare a cambio, Davide, una serata ce la possiamo scambiare. Tu vai con i ragazzi del banco, io vado con Franco, ok? Benissimo. Allora, ci parlavi prima che ci avresti fatto ascoltare un qualcosa. Attenzione. Del tuo passato che sarà parte del tuo futuro. Come in un certo sempre. Senso, no? Quindi un brano che avevi scritto 10 anni fa che adesso ritorna fuori dal cassetto. Allora, ti correggo perché hai detto una cosa che non sai. Sì. Un brano che non ho scritto io. Ah. Questo non è un mio brano, è un brano che ha scritto un ragazzo che si chiama Francesco Raparelli, che qualcuno forse conosce perché diciamo è un giornalista, diciamo, uno scrittore che si occupa di filosofia in Italia, che è stato mio compagno di viaggio 10 anni fa, e con un progetto che avevamo insieme, che condividevamo, che ci ha fatto fare anche belle cose, che poi però è rimasto un po' lì perché la discografia italiana, come al solito, è una grossa anticamera dove tutti fanno la fila, ci sono i numeretti, poi a un certo punto si spegne la macchinetta, elimina code, venite, cioè, domani e tu stai lì e non sai mai che devi fare, questo limbo lunghissimo per cui io l'ho bypassato, però ho detto a me la discografia non interessa più, grazie, abbiamo già dato, vabbè, non divago. E Francesco Raparelli ha scritto questo pezzo che secondo me, a distanza di 10 anni, ecco perché le belle cose poi non hanno età, sta molto bene nel prossimo lavoro di FM che si chiama Oggi mi voglio bene, e questo brano si chiama Vi faccio parlare. E ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live assieme a Filippo Marcheggiani. Adesso vi faccio parlare, anche se vi disprezzo. Intanto ho visto tra le macerie, rintraccio tra i rottami, cuori che battono ancora, sorridi che sorridono. parole che parlano, abbracci che abbracciano. Non so più restare seduto a pensare a come non farmi male. L'indifferenza mi vuole attaccare. Non so più restare, ma soli sembra difficile fare qualcosa per non farsi ammazzare da tutto questo vuoto mentale. Mi chiedo di fronte al nulla, dopo la mia vita, perché accettare che le cose vadano, sopportare chi accetta, cuori che non battono ancora, sorrisi che non sorridono, parole abusate che non parlano più. Non so più restare seduto a pensare a come non farmi male. L'indifferenza mi vuole attaccare. Non so più restare, ma soli sembra difficile fare qualcosa per non farsi ammazzare da tutto questo vuoto mentale. Per adesso vi faccio parlare. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sempre all'interno di Blue Radio Veneto, Blue Time Live, questa programmazione serale con la musica dal vivo. In questa serata ospite in studio Filippo Marcheggiani per la presentazione del suo progetto FM e questo CD che si intitola Disperato Erotico Rock. E in questo brano che invece ci siamo appena ascoltati c'è già un'anticipazione di quello che sarà il prossimo lavoro di Filippo Marcheggiani. Quindi abbiamo ascoltato Vi Faccio Parlare. Ricordiamo anche il titolo prossimo, non è che lo cambi poi in corsa? Guarda, io no, non credo, perché sono già molto legato a questo titolo. Oggi mi voglio bene, che ha un senso poi in tutta la racconto. Non voglio parlare di un concept album perché sarei un po' pretenzioso, però è un disco che è legato a un libro, a un film a cui sono molto affezionato, che è Fight Club di Chuck Palahniuk e di David Fincher, il film con Brad Pitt e Edward Norton, un film insomma che uscì all'inizio, nei primi anni 2000, e ci sono insomma delle cose, delle congruenze con questo racconto, con le cose che ho scritto, che ho selezionato, e poi con altre cose, tipo ecco questa canzone di Francesco Raparelli che ho ripreso da un vecchio repertorio che avevamo in comune tanti anni fa, che secondo me descrive bene nell'album insomma uno stato d'animo dell'attesa prima del poter insomma scardinare alcune convenzioni, alcuni centri di potere anche del pensiero che a volte ci stanno un po' stretti. Quindi per adesso vi faccio parlare anche se vi disprezzo, insomma. Poi capite bene che il disco non sarà proprio all'acqua di rose. Certo, però è un pezzo molto, cioè abbastanza duro, abbastanza energico. 10 anni fa l'avevi scritto già così, era stato scritto già così? No, era molto più lento e lo cantava una donna. Ah, lo cantava una donna. Pensa. L'hai trasformato? L'ho trasformato e poi la versione sarà molto rock. Già la versione rock abbiamo sentito qua stasera, sì. Decisamente. Lo stiamo preparando proprio in questi giorni, stiamo facendo la preproduzione con i ragazzi, perché probabilmente inizieremo le registrazioni del disco molto presto, entro il mese di novembre. E chiaramente il disco non vedrà la luce molto, molto presto, ma vogliamo fare le cose con giusto tempo, perché mentre Disperato Erotico Rock per me ha rappresentato un disco di catarsi, in un momento proprio che dovevo uscire, in un anno come il 2012 che a tutti insomma pensato come l'anno della crisi, l'anno della disfatta, l'anno e per me invece è l'anno del risveglio, della rinascita, perché in questo momento in cui vediamo che la gente insomma comincia, le pentole, i coperchi cominciano a saltare, le pentole bollono, insomma liquami di ogni genere, chi è sempre stato coerente, chi è sempre stato pulito, chi ha sempre fatto le proprie cose con onestà dovrebbe avere il coraggio di dire io sono qui e ci sono per restare. Qualcuno mi ha scritto: ah, questa è l'Italia, sempre riferita alla famosa tribute band, il famoso scambio di opinioni, sì, con quel giorno a Roma, quei sì. ragazzi che hanno avuto l'idea geniale di fare una cover band dell'artista italiano più famoso del momento. Grazie che lavori, bravo, così so buoni tutti, si dice a Roma. Cosa vi stavo dicendo? Del coraggio. Del coraggio, insomma, che mi dicevano: beh, questa è l'Italia, se ti va bene così, se no vattene in America come hanno fatto tanti miei amici. E ho fatto: no, io sto qua e lotto contro di te, anche perché anche tu sei responsabile di questo sfacelo, perché continui a fare le marchette e invece di fare qualcosa di nuovo, di aumentare e crescere culturalmente la scena musicale italiana, la affossi andando a duplicare qualcosa che commercialmente ha un ottimo valore e basta. E tu hai detto una cosa a proposito relativa a questo in un'intervista molto bella, tra l'altro, che abbiamo trovato in internet. Hai parlato che molti spesso e volentieri prendono la carta di credito per prendere i dischi editati dei Beatles, cioè dei Rolling Stones, dei Pink Floyd, e c'è la musica nostra autoctona che viene lasciata da parte, perché non è fatta con la stessa qualità, non è fatta con la stessa libertà. Musica supermercato, tu hai parlato. Bravo, musica da supermercato, cioè ditemi voi quanti dischi in Italia ci sono che potrebbero avere un ruolo importante in un certo filone anche culturale, e se ci sono, quanto sono conosciuti, quanto sono portati all'attenzione del pubblico. Assolutamente pochi, pochissimi, e portati a zero all'attenzione. Parliamo di Padania, insomma, un disco certo. difficile, è un disco bello, un disco libero, io l'ho trovato molto libero. Ma qualcuno ha detto: ma sono gli After Hours, possono farlo? E perché? Questo non lo so, ti chiedo a te. E io che devo fare? Certo, no, devi continuare. La pubblicità dei deodoranti. Appunto, devi continuare. No, perché sennò rapper e poi le cose. Certo, ma allora il signor Caparezza, no? Dimmi. Sì, più grande filosofo del terzo millennio. Dimmi. È tanto scemo, secondo no, voi? Assolutamente no, assolutamente no. È furbo. Sono fuori dal tunnel del divertimento, un concetto che è sfuggito ai più, ma insomma era divertente, si ballava. Vieni a ballare in Puglia. Cioè, voglio dire, chi ha idee le tira fuori con coraggio, con senso di sfida anche delle convenzioni di questo modo di fare musica, come se fosse industrializzazione di un prodotto commerciale, mentre stiamo parlando di arte. È arte, assoluta musica è arte, assolutamente, non è un prodotto commerciale, è arte. Dovrebbe essere arte. Poi senti delle cose, senti che esce il disco del famoso gruppo inglese che si è votato alla causa di Brianino, poi dopo sei mesi il famoso gruppo salentino fa lo stesso identico disco con i testi in italiano, proprio stessi suoni, stessi arrangiamenti, e tu partono i pezzi e dici: chi saranno? Loro o quegli altri? Vabbè, l'arte, diciamo, comincia un po' a vacillare, secondo me. Perché lì poi strizzi un occhio, strizzi l'altro, stai con tutti e due gli occhi chiusi e non vedi che te stai praticamente incanalando in quel punto di non ritorno che è il mainstream, purtroppo. Che invece dovrebbe essere la somma delle cose più belle, più vere, non più difficili, più emozionanti. Perché i Beatles non erano difficili, erano emozionanti. I Beatles hanno scritto grande musica, però l'hanno fatta capire a tutta la gente. Certo. L'hanno capita a tutti la musica dei Beatles. E però hanno scritto delle pagine di musica non proprio ABC, anche l'ABC hanno fatto, ma sempre con un'attenzione particolare, se la sono inventata loro. Perché lavoravano sempre, continuavano a sperimentare continuamente, giorno per giorno. Esatto, invece quello è il motivo. Noi passiamo le giornate al telefonino a parlare con... quello è bello. I promoter, vabbè. Bene, allora finiamo con Marcheggiani. Dottor Divago va a prendersi un caffè. Dai. Benissimo, allora mentre... Dove siamo arrivati? Mentre ci prendiamo il caffè, questa volta... Sentiamo uno dei più grandi. Allora lo sentiamo nella tua grande interpretazione. Sì, posso dare un bacione grande a Ivan Graziani, certo, lassù, che di cui ho nemmeno un briciolo del suo talento, però ho degli occhiali rossi molto simili ai suoi e ne vado molto fiero, perché ci ha regalato questi altri pezzi, un artista artista troppo facilmente dimenticato, che molti non conoscevano, che hanno riscoperto alcuni grazie anche a questa piccola versione di Mona Lisa, che non è stata assolutamente inserita nel nuovo tributo a Ivan Graziani pubblicato ultimamente da una nota testata giornalistica romana. E perché sono passato praticamente, non lo sanno che esisto, però va bene così. Benissimo. È bello così. Allora ce l'ascoltiamo qui all'interno di Blue Time Live. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Ora Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride tra le ombre e le tende di velluto, ed io sto torturando tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Ora Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo ascoltati Monna Lisa, questa bellissima canzone di Ivan Graziani, riveduta e corretta da Filippo Marcheggiani in questo suo progetto chiamato FM, il suo disco Disperato Erotico Rock. Allora, abbiamo ricordato la figura di Ivan Graziani, che a quanto abbiamo capito è uno dei tuoi artisti preferiti in assoluto. È uno di quegli artisti che stimo enormemente. Per la carriera, per la vita che hanno fatto, e perché credo che, ecco, sia uno di quegli artisti che è stato coerente fino all'ultimo nel suo discorso musicale, che non era mai un discorso musicale estremamente complesso, era un cantautore con grandissima sensibilità artistica, grandissima capacità di strumentista, e lui era anche un grande chitarrista, e ha portato avanti il suo discorso fino alla fine, lottando veramente giorno dopo giorno, fino a che la vita, insomma, l'ha lasciato andare. E la cosa che mi piace di questo pezzo, che hai detto bene, riveduto e corretto con quintalate di grappa soprattutto, questa è una versione molto, insomma, molto alcolica, e che questo pezzo deve essere capito, questo è un pezzo che intanto richiama un fatto storico che noi abbiamo citato nel videoclip che è stato prodotto. Sì, anche di questo volevamo parlare. Esatto, noi abbiamo fatto questo videoclip molto divertente, e l'abbiamo pensato insieme, insomma, ai ragazzi che sono poi gli attori che poi interpretano questo video, che hanno fatto praticamente tutto, montaggio, regia e tutto quanto. E il soggetto è la mia compagna Valeria Ciuffreda, che tra l'altro ha scritto ha collaborato con me nella stesura di alcuni testi, e lo sta facendo adesso anche per il disco nuovo. C'è anche lo zampino qui lì anche di Francesco Di Giacomo, cosa di cui mi onoro enormemente. Infatti lo ringrazio sul disco, su un brano che poi sentiremo fra un po', e te lo dico dopo, quindi, perché sì, l'ho ringraziato e dove l'ho dovuto proprio ringraziare. E poi c'è stato anche Emiliano Branda, che ha eseguito al pianoforte l'ultimo brano, l'ultima traccia del disco. E insomma, diciamo che abbiamo rievocato con questo video, in modo assolutamente ironico, il furto della Monna Lisa, che venne compiuto 100 anni fa ad opera di un imbianchino di Varese o di Novara, non mi ricordo mai, che prese che la Monna Lisa stava facendo dei lavori di ristrutturazione al Louvre, vide la Monna Lisa, decise che la Monna Lisa doveva tornare a casa, la prese, la staccò dal chiodo e se la portò in Italia. Anche perché non era ingombrante. No, assolutamente. Sì. E per 3 anni questa Monna Lisa è sparita, scomparsa, si è aperta una crisi internazionale tra Italia e Francia. Lui, che pensava di rientrare come un eroe, è stato praticamente braccato come l'ultimo dei criminali, e quando ha ormai in bolletta assoluta è andato agli Uffizi tentando di vendere l'opera agli Uffizi, è stato arrestato, identificato, e lui, io penso, sia uno dei grandi eroi italiani. Non per quello che ha fatto in sé per sé, perché effettivamente ha compiuto un furto, il tentativo di difendere la cultura italiana dalla eccessiva esterofilizzazione che viviamo da tanti anni, e dall'altra, forse, diciamo, argomento ben più recente, da questa devastazione, desertificazione della cultura ad opera di questa martellante informazione mediatica, che fa in modo che tutti sappiano ma che nessuno conosca veramente le cose. Certo, io ormai lo chiamo il Medioevo, questo periodo storico. Ricordiamo anche la figura del guardiano, che chissà come sta in questo momento, che si è preso diverse custode, botte in testa. Esatto, indovinate un po' chi ha fatto la parte del custode nel video. Io. Forse eri tu, sì. Tra l'altro, poi, se lo cercate su YouTube, insomma, sì, FM Video, FM di solito è quasi il primo che esce, perché ha parecchie migliaia di visualizzazioni, perché il video comunque è molto divertente, soprattutto perché gioca anche su un altro mito, che la Monna Lisa non fosse una donna. Mm-hmm. E quindi tutta questa cosa ha creato questo soggetto molto divertente, e ci siamo divertiti molto a farlo, e anche chi l'ha visto, insomma, è rimasto molto divertito. Sì, assolutamente divertito, anche perché mi ha detto: bello il suo pezzo, hai scritto veramente un pezzo bellissimo. Ho detto: magari avessi scritto io. L'unica cosa che ho in comune con Ivan Graziani è che il suo figlio si chiama Filippo come me. Ecco. Lo saluto, un giorno forse lo incontrerò e potrà insultarmi pubblicamente per la versione, per lo scempio che ho saputo. Magari l'ha già trovato su YouTube e si è anche divertito. Ma spero di sì, spero che gli sia piaciuto, insomma, perché era veramente, avevo tutta la voglia di fare una cosa per ricordare Ivan nel modo più giusto. E poi hai detto una cosa bella su Ivan, questo pezzo è molto più rock di certi pezzi rock che vanno in classifica ora in questo momento. Tu dici? Sì, decisamente. Beh, noi siamo Lambruschi, coltelli, sì, qualcosa di quel genere. Ok, allora la fiesta e cose. Questo è rock in italiano. Vuol dire io faccio rock nell'essenza dei contenuti. Il rock italiano è sembriamo Springsteen, ma in realtà siamo di quarto giaro. Benissimo. Allora, un altro grande cantautore italiano che ha regalato anche dei pezzi che hanno fatto la storia dell'Italia, anche ha regalato così, tra virgolette, in realtà poi naturalmente i diritti d'autore esistono e non si toccano. Stiamo parlando di Ivano Fossati. Ivano Fossati, e quest'anno dà l'addio alle scene, sta facendo il suo tour di addio, insomma. Sì, che non è proprio una cosa, diciamo, mediatica per... Beh, Ivano secondo me ha avuto un grandissimo successo, un grande rientro negli anni 90, ma l'ha fatto anche lui con una grande coerenza e con una grande eleganza, perché si è sempre distinto secondo me nella seconda fase della sua carriera. Nella prima lui era un ottimo cantautore, molto stava sulla cresta, nel senso che aveva delle sonorità molto fresche, se pensiamo alla mia banda sono il rock, se pensiamo alla musica che gira intorno, insomma brani che comunque in quell'epoca avevano di diritto un posto anche nelle classifiche delle radio, delle televisioni, però grandissima scrittura, se pensiamo a un brano come Non sono una signora, insomma, ma chi li scrive più brani così, per chi li trova più autori del genere? E Loredana, chi canta più un pezzo simile? Tra l'altro. Bene, allora stavo parlando, capito? Tu hai una canzoncina di Ivano. Ho tirato fuori, perché io faccio questa opera, a me piace trovare, scovare le cose, quelle che conoscono in pochi. Questo brano che sta sul disco La mia banda sono il rock, che è del 1979, voi lo sapete bene, magari i più giovani non lo sanno, e che si chiama La crisi, ed è un brano che sembra scritto, io di solito lo suono dal vivo, insomma, quindi ve lo faccio dal vivo. Eccolo qua, La crisi, un brano di Ivano Fossati, e con noi c'è Filippo Marcheggiani. Non esco di casa, no no, fuori c'è la crisi. C'è la crisi, e per Natale cosa mi regalerò? Alla stazione di servizio si dice che manco già da un po'. Io no, non esco di casa, fuori c'è la crisi. La crisi ci aspetta giù al portone, studia dove andiamo. La crisi ci segue, è come un granchio e non ci molla più. Al supermercato la cassiera già da un po' chiede di me. Va tutto bene, ma più che bene, solo c'è la crisi. Avevo un bel gatto e un bel televisore, mangiati dalla crisi. E se continua per Natale, cosa mi regalerò? Oh mamma mamma, io sto bene, non telefonarmi più. Va tutto bene, ma più che bene, solo c'è la crisi. Va tutto bene, più che bene, solo un po' di crisi. Va tutto bene, solamente non ce la facciamo più. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blue Time Live. Blue Time. Mai come ora ho capito che molti cantautori nelle loro canzoni guardano assolutamente al futuro, quindi sì, sono dei cantautori, ma sono anche dei grandi, come dire, veggenti. E forse che viviamo dei corsi e ricorsi storici continui, per cui... Beh, c'è anche quello da dire. Ho iniziato a fare questo mestiere nel 95, facevano, sì. Beh, dai, allora quando fai le trattative con i manager per tutto che c'è, sì, pensa, sai, adesso è un periodo di crisi, sai, il mercato musicale, in effetti sì. È vero, la nostra crisi è iniziata veramente 10 anni fa, sì. Noi insomma, quindi sì. Noi musicisti alla crisi abbiamo fatto, diciamo, il callo, abbiamo la scorza dura, siamo ormai resistenti alla fame e alle carestie. Sì, qualcuno dice che siamo alla metà del guado, quindi se tu dici che sono 10 anni è un po' preoccupante la cosa. Tutto bene. Speriamo si riesca ad uscirne prima. E anche il mondo musicale, tu confermi, è molto, molto in crisi, quindi sì. Il mondo musicale è in crisi, ma io... Ti ribadisco questo concetto. Sfruttiamo questo momento per dire qualcosa di nuovo, per scardinare quelle che sono le convenzioni fallimentari di questo mercato. Perché la musica italiana ha fallito a livello proprio discografico, ha dei numeri ridicoli. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo modo di fare musica, di proporre musica, di vendere musica. Probabilmente bisogna ricostruire qualcosa, una credibilità che porti la gente a comprare un disco nuovo di un artista vero italiano, con la stessa bramosia con cui striscia la carta di credito per comprare la versione rimasterizzata del trentennale di Dark Side of the Moon di Floyd, per esempio. Certo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione, che rigorosamente viene registrata, poi sarà inserita anche all'interno del nostro podcast, quindi attraverso la pagina sul nostro sito internet bluradioveneto.it, appunto nella pagina riservata a Filippo Marcheggiani FM, ci sarà anche la possibilità di prendere questo podcast per ascoltare nella versione acustica i brani che poi ritroverete anche all'interno di Disperato Erotico Rock, che sono ben 9 pezzi assolutamente movimentati che vi danno anche un po' di grinta. E ricordiamo altresì che sono state anche scattate alcune foto durante la trasmissione e queste finiranno anche sempre nella nostra pagina, ah, riservata, sì, alle fotografie, così, attenzione, vedrete. Quindi anche sarete i primi a vedere, a pubblicare delle mie foto con gli occhiali da vista. Esattamente. Quindi avete questa esclusiva che pagherete con... Sì, certo. Pagherete molto cara, insomma. Sì, sì, sì. Vogliamo l'esclusiva, la paghiamo. Esatto, pagando si fa tutto. Quindi si ritorna. Questa io farò una maglietta. Preparare il prossimo merchandising di FM, ci sarà la maglietta. Pagando si fa tutto. Hai fatto una versione molto blues, decisamente blues, un finale assolutamente blues di questo pezzo di, sì, Fossati. Però possiamo dire che nelle corde il blues esiste in Ivan Fossati, assolutamente. Anche il rock. Ivano... E la banda suona rock, è il post delirio. Appena sciolto il delirio, almeno allontanatesi dai delirio, lui ha portato avanti questa carriera solista. Sì, una carriera solista costellata di grandissime gemme. Ha scritto brani veramente importanti. E molti brani rock. C'è, cioè, questo che sicuramente la versione di Ivano è molto Motown, sì, e noi abbiamo fatto una versione un pochino più, diciamo, abbiamo strizzato l'occhio un po' a John Mayer. Poi tra l'altro di questa versione l'abbiamo fatta live insieme a Francesco Di Giacomo alla presentazione del disco di Disperato Erotico Rock. Lui ha presenziato, insomma, con una bellissima versione di questo brano che abbiamo cantato in duetto, e poi ha fatto un monologo assolutamente esilarante, che credo si trovi anche da qualche parte su internet. Internet ormai è il mezzo con cui comunichiamo e ci confrontiamo con gli ascoltatori e i fan. No, chiamiamoli ascoltatori, mi piace, perché ascoltatore è una cosa che ci devi stare con la testa e con il cuore, certo, per fare. Il fan, basta che gli tiri un carzino, come puzza bene il tuo piede. Invece adesso un calzino, una volta si tirava qualcosa d'altro, sì. A un certo punto, anche che bisogna vedere, insomma, da quanto tempo è che stai in giro per fare i concerti, insomma. Io eviterei di tirare le mie mutande dopo una giornata come questa dal palco, perché non vorrei trovare brutte sorprese. Ok, stiamo trascendendo, tanto l'orario comincia a essere tardo della notte. No, sì, sì. Volevo dire una cosa che molto bello il rapporto che si crea con internet. Io ormai ho sposato Facebook da acerrimo nemico di questo social network, che adesso si dice addirittura sia sotto controllo del Ministero degli Interni, a cui ho fatto una simpatica dedica qualche giorno fa. E, visto già che ci siete, vi dedico questo. E vabbè, poi ve l'andate a trovare sul mio profilo Facebook, che è aperto a tutti, perché un'amicizia su Facebook è come un dottore a Roma, non se nega mai a nessuno. Quindi mi trovate su Filippo Marcheggiani, ce ne sono tre sulla rete, insomma, a me mi riconoscete penso abbastanza facilmente, e anche gli FM li trovate su Facebook. Quindi su Facebook c'è si riesce insomma a confrontarsi. Io sono un po' il rocker della porta accanto, mi piace mantenere questo profilo molto umano, perché a me il divismo, anche se aiuta perché crea il mito, ma insomma non mi sento né Re Lucertola né Zoso, insomma mi sento Filippo, per quello che sono mi propongo. Poi chi vuole stare, chi ci vuole stare è benvenuto, chi non ci vuole stare, insomma, ci sono tanti altri bei posti da visitare. Adesso Filippo, è giunta l'ora di ascoltare un qualcosa che va bene di notte, no? Sì. Quindi una strana notte senza luna. Allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. contiamo più. Abbiamo ascoltato questo pezzo intitolato Strana notte senza luna, lui è Filippo Marcheggiani, FM è il nome del suo progetto condiviso assieme ad altri musicisti, tra le altre cose ricordiamo ancora il gruppo che è con te Filippo, Caos il Caos Calmo, con Andrea Samonà, Francesco Marras e ancora Daniele Raggi alla chitarra, che ha detto che è stato lui a darti un po' la spinta. Sì, Daniele è quello delle serate passate a bere birra, sì. E più ogni birra che lui si prende tu sai che si allungherà la discussione, cioè lui è molto più logorroico di me, solo che io divago, lui invece va dritto e ti martella, alla fine gli devi dire sì Daniele lo facciamo, bene, hai bene. Ragione te, allora vediamo poi quando... tra l'altro qui insomma cioè, sì. Vi svelo la collaborazione, qui Francesco Di Giacomo ha scritto questa frase: amarti così tanto che se vuoi ti giuro che non ti amo più. E io gli sarò sempre grato per questa frase che mi ha regalato un giorno di qualche anno fa, e che è stato il suo piccolo, piccolo grande contributo alla, a quest'opera. Insomma, avere una firma del genere, tra l'altro non ha voluto nemmeno firmarli i pezzi, perché lui, tanto signore, ha detto sono i tuoi pezzi, ho sparato un paio di cazzate qui e là, va bene così, restiamo amici come prima. Invece Francesco mi ha, adesso lo sto tampinando io come fa Daniele con me, perché mi sta aiutando nella stesura dei brani del nuovo album. Cioè la title track che si dovrebbe chiamare Oggi mi voglio bene, ma in realtà si chiama Buonanotte, e l'abbiamo scritta praticamente a quattro mani, quindi sto stringendo un po' la collaborazione dal punto di vista dei testi, forse più grande autore di testi degli ultimi. Quindi fermerà lui stavolta? Sì, no, lo costringerò. Metti che vendo 6-7 milioni di copie, scusa, mi farebbe piacere che te facessi un paio di cene di pesce alla faccia mia. Certo. Che cavolo, si sa mai nella vita, dovresti restituire qualcosa, non credo che succederà. Però si sa mai. Bene, però allora diciamo anche, comincerete con una tournée come FM? Guarda, sì, stiamo predefinendo le date, che troverete sempre aggiornatissime sulla pagina di FM, che è FM Fanpage di Facebook, non è ancora attivo un sito ufficiale, ma lo sarà spero a breve. Su Twitter, appena capirò come funziona questo fantastico mondo del Twitter, io non cinguetto, capite? Io divago, quindi ho bisogno di scrivere, di spazio, di aria, e infatti su Facebook i miei post vi impalleranno le bacheche. Sì, esisterà anche un divago.com a questo punto. A questo punto io penso che lo farò, sì, il dottor Divago, un bel blog sarebbe veramente ideale. E quindi le prossime date stiamo definendo, abbiamo parecchie cose su Roma, speriamo di venire anche qui da queste parti, insomma stiamo parlando con un po' di locali della zona. Bene, fatecelo sapere. Assolutamente, allora, mi raccomando, non mancherà. Allora abbiamo parlato piacevolmente con Filippo Marcheggiani, questo progetto chiamato FM, ancora con il nuovo lavoro che si intitola Disperato Erotico Rock, e aspettando il nuovo prossimo lavoro di cui abbiamo avuto già qualche anticipazione. Allora, noi prima di lasciarci, Filippo, vogliamo spendere ancora due parole con il pezzo che andremo ad ascoltare in chiusura, ovvero Vite in Standby. che era inizialmente, cioè 9 anni fa, il pezzo che dava il titolo all'eventuale disco Vida in Standby. Poi c'è stata una certa di metamorfosi a un certo punto di questo percorso, all'inizio delle registrazioni di Disperato Erotico Rock avevo pensato di chiamarlo Viaggio sulle strade nuove, poi invece abbiamo fatto questa scelta grazie insieme sempre a Valeria, mia compagna, perché volevamo un po' racchiudere nel senso del disco anche questa voglia di raccontare anche la musica ad altri in modo un po' libero, anche un po' tua. Sì, storpiando gli arrangiamenti, storpiando le armonie, per esempio, cioè Disperato Erotico Stomp nella mia versione è cambiata la cadenza degli accordi. Ma l'ho sbagliata proprio, cioè tutti facevano guarda do e sol, no ragazzi do fa, tanto a me suona meglio, anche suona molto meglio, soprattutto perché poi c'è tutta la parte rock punk che gli ascoltatori non hanno sentito, reggae punk, e lì insomma esatto quando c'è la trasformazione arriva il demone del rock, insomma lì le cose cambiano, e quindi abbiamo voluto anche dare questa cosa, insomma questa importanza al fatto che ci fossero delle cover, perché che è una cosa che è stata capita non da tutti, cioè, ma perché metti le cover in un disco di musica? Perché voglio comunque dare un tributo alle mie radici e far capire anche e soprattutto che la musica pop, la musica rock ha la stessa valenza e importanza della musica extra colta, come ad esempio il jazz, per cui se un jazzista fa una cover sta a fare uno standard jazz in modo strafico, nessuno dice niente, assolutamente io faccio la cover, vabbè. Benissimo, tanto allora... per chiudere l'ultima polemicuccia, sì, così sì. Il polemico ci facciamo dottor Divago. Filippo Marcheggiani, ci sentiamo questa Vida in Standby. Ringrazio Emiliano Branda, che è il pianista che mi ha accompagnato in questa versione, che io trovo splendida e che chiude il mio disco e anche questa fantastica serata insieme a voi. Grazie. Benissimo, allora noi ringraziamo Filippo Marcheggiani per essere stato con noi, gli strappiamo un appuntamento anche per la prossima sua gita in quel di Padova, e quindi ti preghiamo ulteriormente anche di salutare gli amici del Banco, che, di cui noi siamo affezionatissimi ascoltatori, e che dire, felice rientro nella tua amata Marino, in quel di Roma. Amata. Diciamo di sì. Benissimo, e quindi noi salutandoci ci ascoltiamo Vita in Standby. Buonanotte, grazie. Bene, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, vi lasciamo con l'ultimo pezzo di FM, Filippo Marcheggiani da Disperato Erotico Rock, questa è Vita in Standby. Ciao a tutti, buonanotte. Aspettare il tempo passare, stare in piedi un'ora ad aspettare senza capire, stare seduto a cantare cambiando la voce per non imitare stupide nenie romantiche da batticuore, stare sdraiato e sentirti respirare al buio senza parlare, stare sdraiato da solo ad affogare senza piangere. E si vive così, con i piedi piantati in terra, con la paura che ti fa vivere sempre in guerra, e ci si muove così, senza alzare lo sguardo al cielo e scoprire così anche il sole può essere nero. Stare in piedi un'ora ad aspettare, senza sapere, stare seduto a cantare, aspettando qualcosa che non puoi più avere. Stare sdraiato e provare a pensare, senza più respirare. Stare in piedi di nuovo e scoprire che non è poi male, e si vive così, con i piedi piantati in terra, con la paura che ti fa vivere sempre in guerra, e ci si muove così, senza alzare lo sguardo al cielo e scoprire così che il sole poi c'è davvero. Poi c'è davvero. Poi c'è davvero. Che il sole poi c'è davvero. Che il sole poi c'è davvero. E si vive così, con i piedi piantati in terra, un coraggio che può far combattere questa guerra. Poi si muore così, quando alzi lo sguardo, poi si muore così. Quando alzi lo sguardo al cielo e sentirti così, come il sole ci sei davvero, ci sei davvero, ci sei davvero.